cadute manate nel tempo, le storie son senza età, a volte è solo un momento che se ne va. Le spinge la forza del vento, sospiri poi che sarà, ricordi solo il tormento, rimasto dentro ma poi se ne andrà. Parlare a volte di un vecchio, di uno che mostra l'età, tradisce a volte lo specchio, la verità. Poi vedi che prende per mano la donna più bella che c'è, un sogno volato lontano era quella che stava con te. Qualcosa che ti avvicina, ricordo che resterà in mente solo un bambino e la sua età. Rimasta per sempre nel tempo e sai che ti darà nel cuore ancora tormento se ciò che senti non se ne andrà. Aspetti che verrà il sole, sperare in qualcosa lassù, passa il giorno che muore e non c'è più. A volte qualche sorriso c'è stato tanti anni fa, la forza che illumina il viso, passa il tempo ma resterà. Perdute e trovate nel tempo, le storie sono senza età, a volte volate nel vento che poi se ne va. In mente ogni momento, un sospiro poi ti darà, ricordi un po' di tormento che come viene poi se ne va. A volte distinguere i vecchi, mettendo in gioco l'età, non dicono sempre gli specchi la verità. Succede di stringere in mano una cosa più grande di te, se questo ti sembrerà strano, ogni storia ha sempre un perché.